La cicogna nera. Ed eccoci qui alle 21:23 con un po' di rientro della mia voce in studio. Siamo tornati in diretta dopo quasi un mese di assenza. La cicogna nera è qui di nuovo sulle frequenze di Radio Onda Rossa per cercare di ascoltarci insieme un po' di nuove uscite per tutti quei suoni, quelle musiche che vanno un po' nella direzione delle musiche del mondo, di quei suoni un po' globalizzati. Nel frattempo, subito così in apertura di trasmissione, sto cercando di abbassare, ecco, forse ci sono riuscito, avevo la cassa che mi faceva rientrare la voce nel microfono. Dunque, ripeto, 21:23, siamo di nuovo qui forti dei 36 anni di esperienza di Radio Onda Rossa e cerchiamo allora subito di ascoltarci un po' di musica del mondo. Questa sera in particolare ci concentreremo ad approfondire un paio di progetti, tutti e due abbastanza nuovi. Il primo sicuramente, che è quello che vi trasmettiamo ora, è uscito da poco più di un mese, è uscito poco prima che ci siamo lasciati l'ultima puntata, perché in chiusura di quella puntata noi ci siamo lasciati con un quesito: può essere quella canzone, la canzone che avete ascoltato in chiusura della cicogna, il futuro, la musica futura della musica maghrebina e nello specifico della musica tunisina, della musica tunisina post-rivoluzionaria, se vogliamo essere ancora più precisi? Probabilmente sì. Questo album che andiamo a riascoltare oggi, anzi andiamo proprio ad ascoltarlo, ad approfondirlo con due o tre tracce, è un album che racconta la storia di una giovane donna della Tunisia, racconta la storia come l'ha vista lei, con i suoi occhi, attraverso i suoi occhi di studente ad esempio, i suoi occhi di giovane ribelle, di dissidente verso il governo di Ben Ali, i suoi occhi di lotta ideologica, di lotta artistica, attraverso le lacrime degli immigrati anche, ci dicono le sue stesse parole, la mia sofferenza e il mio amore per la libertà. Dedico questo disco e questo album a tutti coloro che hanno dato la vita, che sono morti in modo che un giorno la Tunisia potesse essere libera. يعرف ما يرد عليا ما لقيت موجة تبحر تبحر بيا لبعيد I'm E alle 21.30 dunque finiamo l'ascolto di questa apertura della Cicogna Nera allo 06 49 17 50, il numero della diretta se volete chiamarci, oppure lacicognanera@ondarossa.info per le mail. La voce è quella di Hamel Matlouti, giovane tunisina, giovane penso sotto i 30 anni, che ha fatto insomma da poco questo album, album di debutto intitolato Kelm Ti Horra, che significa la mia parola è libera, e questa parola libera è diventata un po' la soundtrack, se vogliamo chiamarla così, della rivoluzione araba. È diventata proprio un inno lo scorso anno, quando insomma è successo quello che è successo in tutto il Maghreb e particolarmente nelle strade di Tunisi, si cantava proprio la sua canzone di questa giovane cantante che è dovuta andare così in Francia per poter incidere questo disco, perché anche lei da qualche parte, non mi ricordo dove l'ho letto, ci diceva che insomma veniva ostacolata, non proprio direttamente ma in tutti i modi possibili, sia a suonare sia nell'incisione dell'album, dalla dittatura tra virgolette di Ben Ali. Comunque lei è nata a Tunisi, è una cantautrice, una compositrice, una cantante, tutto insieme, è anche una chitarrista, suona la chitarra e porta questa nuova musica, una musica insomma che sinceramente non è facile da ascoltare oggi, soprattutto da quelle parti, ma anche qui, perché c'è questa sorta di dicotomia, di due suoni, di due mondi che lei ha saputo un po' far sposare in un modo nuovo, tutto quel suo mondo medio orientale, di Medio Oriente, le sue radici del folk, del Maghreb, insieme ad un suono che avete sentito che per certi versi è molto occidentale, a parte la sua attitudine da rocker, lei ci dice insomma che i suoi idoli sono da una parte per quanto riguarda il mondo occidentale, ad esempio evoca John Baez piuttosto che Bob Dylan, poi dall'altra parte invece per la parte maghrebina e di tutto il Medio Oriente, le sue maestre sono state un po' Sheikh Imam o la libanese Fairuz. Insomma, lei si pone un po' allo stesso livello delle cantanti, delle dive degli anni 60 dell'Africa settentrionale, che andavano nella direzione della ribellione, dell'ottenimento dei diritti umani. Comunque, dunque, Oriente e Occidente, soprattutto Maghreb, e suoni in questa canzone che avete sentito molto bassi, profondi, molto elettronici. Ecco, c'è molta elettronica in questo album, e questa elettronica e questo album forse piace così tanto alla Cicogna Nera perché la produzione insomma di queste manopoline, di questi bassi viscerali, di questi suoni sintetici arriva da un personaggio e da un genere che era l'amore viscerale della Cicogna Nera prima che così si dedicasse palesemente alle musiche del mondo, ossia quella di Adrian Tou in arte e Tricky, che ha collaborato in questo album dandogli proprio una forte impronta di trip hop assieme al suono di berbero, non propriamente berbero, più maghrebino, sì, sinceramente, che sentiamo sotto. Allora, andiamo ad ascoltarci un'altra canzone di questa Hamel Matlouti, che ha iniziato la sua carriera artistica addirittura all'età di circa 8 anni sul palco, leggo, di un piccolo anfiteatro nel sobborgo di Sina di Tunisi, dove ha vissuto fino a 25 anni, poi come vi ho già anticipato si è trasferita in Francia ed è riuscita a pubblicare verso marzo 2012 questo Kelm Ti Horra. Il brano che andiamo ad ascoltare invece è l'unico brano in inglese, Stranger. I am a stranger in this world. Stranger in this world, I am a stranger in so lonely. In this loneliness is so cold. A stranger in this world. Stranger because I can't find my. Stranger, Amel, Macht Luthi. E ci ascoltiamo l'ultima canzone di questo album. Yatoun sia meschina, un lamento per la sua patria, una povera Tunisia. Yeah. Sia meschina, povera Tunisia, ci canta Emel in questo brano che è diventato anch'esso una sorta di inno così della rivoluzione araba dello scorso anno. E ho ritrovato quella cosa che vi avevo detto, insomma, della sua difficoltà a cantare lì, e pubblicato su caffebubble.com ci dice: a proposito della sua difficoltà di espressione artistica, ho dovuto affrontare diversi ostacoli, non mi è mai stato impedito di cantare, ma ero comunque impossibilitato a farlo poiché non facevo parte della cerchia ristretta di musicisti apprezzati dai cosiddetti potenti. Nessun locale mi permetteva di esibirmi, nessuno mi proponeva collaborazione e nessuno pubblicava i miei dischi. Questa è un po' una sorta, ormai lo sappiamo, è una sorta di ideologia ricorrente, no? Quella sotto tutte le dittature, autocrazie o quello che siano, la libertà di espressione e in primis di espressione artistica è la prima cosa e tra le prime cose sicuramente che viene repressa. E, andiamo avanti, ci siamo ascoltati ben 3 brani di questo disco che sicuramente è uno dei migliori progetti per quanto riguarda l'incontro delle musiche del mondo con l'elettronica, in questo caso, in questa elettronica, un nome davvero con delle belle cose sotto, ecco, il grande Tricky ha dato un grande apporto a questa musica. E lei anche, abbiamo detto, una voce, no, che si pone subito quasi così, quasi con un lirismo, non nel senso proprio della tecnica, ma nel senso della sua imposizione, della sua così sicurezza, della sua possanza che ha questa donna, sia penso anche sul palco, io non l'ho mai vista dal vivo. Comunque, come vi ho detto, si rifà un po' alle cantanti, alle dive, alle grandi cantanti che sono passate nel Medio Oriente, nel Nord Africa. Abbiamo citato prima la libanese Fairuz, abbiamo citato Sheikh Imam, e perché no, andiamo anche a citare una grande cantante che è proprio di rimpetto alla Tunisia, che forse non è entrata nella gioventù di Emel, ma che sicuramente negli anni 60, 70 e anche adesso, negli anni 2000, sta avendo una grande, così, una grande forza, una grande coerenza, un grande impatto così per il suo cantare così contro le dittature, contro le imposizioni del suo paese, contro insomma le ingiustizie. Lei si chiama Maluma, arriva dalla Mauritania, che è veramente uno dei paesi più desolati, più assolati dell'intera Africa, probabilmente anche uno dei più poveri, e lei è stata in qualche modo una delle prime donne, forse uno dei primi artisti, magari proprio la prima donna ad inserire, a portare un mix di suoni tradizionali della sua terra con la musica occidentale in qualche modo, no? Lei, a differenza di Emel, che è tunisina, Maluma dovrebbe essere proprio berbera, dovrebbe avere proprio delle radici autoctone di questa parte dell'Africa, ed è riuscita a portare nel suo suono del Sahara così soprattutto le chitarre occidentali, mescolandole e quindi con degli strumenti che sono anche tipici di queste parti, come il liuto a quattro corde che si chiama il Tidinit. Pubblica nel 2007 un grande album che si chiama Nour, e da quello noi andiamo a sentire la canzone che ha più elettronica questa sera, ecco, ci facciamo un po' tirare da questi suoni. Do you believe in him? la Casa Blanca di Maluma, una militante griola potremmo definire, chiamare, figlia di un altro grande musicista, Mokhtar Hulmeida, un musicista di primo piano tradizionale, così come di un poeta altamente qualificato, la nipote Mohamed Yaha Hold Boubane. E lei, sto leggendo in questo momento in un articolo pubblicato nel 2007, dunque all'incirca nel periodo di uscita di questo Nur, che dice l'ultima frase: tuttavia con le prime elezioni in Mauritania Maluma è ora in un posto speciale per ottenere un cambiamento, essendo sia un funzionario eletto nel partito e sia contemporaneamente continuando a fare musica. Cioè, non è scritto proprio così perché è in inglese, la mia traduzione, quindi non è in un italiano perfetto. Comunque l'essenza è che nel 2007 o poco prima ci furono le prime elezioni così tra virgolette democratiche in Mauritania, e lei è stata insomma eletta ufficialmente funzionario del governo e contemporaneamente continua a fare la sua musica, una musica potente, una musica che entra nelle ossa, no? Come vi dicevo prima, portavoce delle donne in questo paese che è fondamentalmente musulmano, portavoce delle campagne contro l'AIDS, delle campagne per le persone anziane, e insomma questo è veramente un valore aggiunto, e mi viene da pensare che magari certe volte e in certi paesi la democrazia può dare dei piccoli buoni frutti, come succede in questi casi quando veramente degli artisti vengono insomma fatti entrare nel governo, vengono eletti, o che ne so, mi viene in mente in questo momento il ruolo che Gilberto Gil ha avuto come ministro della cultura in Brasile, e come altri musicisti hanno in altri paesi del mondo, sicuramente non l'Italia, dove questa cosa penso non potrà avvenire ancora per molti molti anni. Ancora un'altra voce femminile, lei forse un po' meno impegnata nel sociale, nella politica, ma è veramente a livello artistico ed elettronico molto avanti. Arriva dalla Spagna, è già passata quando è uscito questo album dalla Cicogna Nera. Andiamo ad ascoltarci o riascoltarci un brano, sinceramente non mi ricordo se ve l'ho passata. Si chiama Mercedes Peón e alcuni la conoscono perché così ha un look di capelli rasati a zero che qualche volta ricorda la più famosa Sinead O'Connor. Arriva dalla Galizia, dove lei insomma prende i suoi brani tradizionali, brani folk, e cerca un po' di rileggerli con nuove interpretazioni, soprattutto con una bella base di elettronica e di campionamenti, e lei fa quasi tutto da solo. Insomma, in questo album che si chiama SOS, pubblicato nel 2010, ci sono sicuramente dei musicisti a fare l'album, ma praticamente nell'intero progetto lei suona più di 20 strumenti e si campiona, si riproduce, si sovrappone, mette dei loop di elettronica. Insomma, veramente un artista a tutto tondo. Questa è Anacos. Yeah. E la cicogna nera arriva alle 21.57. Ci siamo sentiti la grande Mercedes Peón dalla Galizia, dalla Spagna, grande sapiente mezcla di folk e musica elettronica, che lasciamo quando sono arrivati quasi le 10 per questa puntata della cicogna nera. Però continuiamo sempre sulla voce di grandi donne. In questo caso la prossima non arriva da molto lontano, in realtà fa parte sempre dell'Europa, è una voce rumena che è emigrata dopo la caduta del regime, anche quello sicuramente un regime, emigrata dalla Romania dopo la caduta del muro di Berlino, e così un po' perché per sottrarsi al caos che accompagnava un po' tutta la crisi del comunismo nei paesi dell'est. Oana Catalina Kitu, o Kitsu, dove ho letto che si dovrebbe pronunciare da qualche parte, comunque è emigrata a Berlino, dove ha messo su un grande spettacolo teatrale che si chiama Bucharest Tango e che è stato fatto da lei, è stato finanziato dall'Istituto Culturale Rumeno di Berlino, e comprendeva appunto le musiche, molte musiche che poi sono diventate un album che porta lo stesso nome, Bucharest Tango. Bucharest Tango è il tango che si trovava in Romania, nelle periferie di Bucarest, nei parchi, e che si suonava all'incirca negli anni 30. Era diventato molto popolare in questo periodo, il tango, quando poi quando arrivò insomma il regime, una delle prime cose che fece è stata proprio soffocare, è stata proprio eliminare questo genere musicale, è stato metterlo a bando. E precisamente vado a ricercare circa il 1947, è stato messo al bando, o comunque scomparso definitivamente, il tango romeno, che ha un suo perché, ecco, diciamo così, nel 1947, quando il re fu costretto ad abdicare, e così le migliori voci del tango romeno, Gian Moscopol, Cristian Vasile, furono ridotte al silenzio o pressoché scomparse. Lei, questa giovane cantante, ha trascorso i primi anni della sua vita naturalmente nella sua terra di origine e ha studiato lì il pianoforte, il jazz, il canto lirico, però poi, come fanno alcuni insomma che provengono dall'area classica, soprattutto dell'est Europa, si dedica alla ricerca, alla riproposta delle musiche, di queste musiche soprattutto, ma anche di altre sonorità che hanno fatto la storia del folk romeno, le ballate ad esempio di Maria Tanase, considerata un po' la Edith Piaf romena. Insomma, vabbè, ho parlato già troppo, ma so, è ora di andarci ad ascoltare questa Oana Catalina Kitsu con Femeia, Eterna Poveste. Zile cu stele, când singur ești și ai vrea mângâieri, dulci ca și ieri, dar în zadar te lupți amar cheia. Vieții e femeia și numai ea îți dă ce-ți dorești, dar să știi să o iubești. Cine este și iubește-o mereu, oricare ar fi ea să fie, de ți-a fost dată ție, ia-o că-i bunul tău. Vrei să fii fericit? Refrenul acestui cântec trăit, femeia eterna poveste, întreba cine este și iubește-o mereu. Thank you. come re. Oricare ar fi a să fie, nu ți-a fost dată ție. Ia-o că-i bunul tău. Ascultă, de vrei să fii fericit, refrenul acestui cântec trăit. Femeia, eterna poveste, întreba cine este și iubește-o mereu. Questo dunque il tango rumeno dei caffè, dei club, delle piazze, dei parchi che veniva suonato nella Bucarest degli anni 30 circa, che poi insomma il regime socialista così lo vedeva un po' troppo decadente, troppo inadatto all'immagine trionfalistica che bisognava diffondere, e così lo fece scomparire in qualche modo. Benvengono questi progetti di Oana Catalina Kitsu, che intanto salutiamo dall'altra parte del vetro, le due compagne che sono arrivate, di Oana Catalina Kitsu, che insomma ripropongono così un po' di musica vera della Romania, che ha una grande tradizione sonora e che purtroppo, come sta succedendo in Europa, è già successo da quasi tutte le parti, ma anche in tante altre parti del mondo, questo pop melenso e globalizzato sta un po' facendo così, sta facendo rischiare di scomparire, di far scomparire la vera musica. Questo pop veramente sarebbe veramente da eliminare. Comunque andiamo avanti, ancora forse due o tre canzoni. Iniziamo, continuiamo sempre in quest'area, dalla Romania ci spostiamo nella vicina Ungheria con un altro musicista. Questa volta lasciamo le voci di donna che hanno caratterizzato fino a questo momento la puntata della Cicogna Nera per concentrarci su un altro musicista che ha una grande, anche lui, estrazione classica, tra l'altro nei notoriamente ottimi conservatori ungheresi. Lui si chiama Kalman Balog o Balog, così suona il cimbalom, che praticamente è il salterio più rappresentativo da queste parti anche della cultura rom, uno strumento musicale che ha delle corde battute o pizzicate e che è proprio tipico dell'Ungheria e dell'Ucraina, e ha sia i piedi sia nelle versioni un po' più così rudimentali suonato nelle campagne senza piedi appoggiato, che poi tra l'altro è uno strumento che i compositori classici di quest'area come Kodály, come Béla Bartók, come Stravinsky, sono andati un po' a ricercare questa sonorità e l'hanno inserito loro stessi in numerose composizioni. Comunque noi torniamo al nostro Kalman Balog e la sua Gypsy Cimbalom Band, una grande, veramente un grande gruppo con una tecnica penso eccellente, che ha un repertorio e un'attitudine che è completamente popolare e gypsy. Però comunque ha delle incursioni anche nel jazz, ha un'attitudine, ecco, che più che un'incursione per questa musica zigana, che ricordiamolo sicuramente, soprattutto quella romania, è sparsa un po' in tutta l'Europa dell'Est, ha iniziato un viaggio di andata, di ritorno, però è probabilmente è proprio da questo territorio, quello ungherese, che ha iniziato il suo viaggio, perché non dimentichiamolo, circa un secolo fa nell'Ungheria c'erano anche la Transilvania, che oggi fa parte della Romania, che notoriamente è un po' la portavoce in qualche modo per dei grandi gruppi rumeni. Va bene, anche in questo caso basta con le parole, andiamo ad ascoltare questa canzone che fa parte di un album del 2003 a Roma. La canzone si chiama Regeli Cave, ossia il caffè del buongiorno. We'll be right back. Eccoci qui. Intanto la canzone è finita, no? Il caffè del buongiorno, il, come che si chiama? Il cave del, andiamolo a dire, il reggae. Lì sembra quasi un, no, un caffè in versione reggae. Sicuramente, come vi ho detto, avete sentito dalle sapienti mani di Balog Kalman, o Kalman Balog, che è più esatto, che ha una tecnica veramente eccezionale. Anche i loro strumenti sono, insomma, tutti gli strumenti del gruppo che l'accompagnano fanno paura. Il sottofondo, tra l'altro, che è partito poi perché mi ero un attimo assentato dalla regia, arriva da un gruppo polacco che si chiamano i Kroke, anche loro di impostazione un po' jazz. Kroke probabilmente significa Cracovia, e noi proprio in Polonia ci spostiamo per chiudere questa puntata con un progetto appena uscito di un grande gruppo che sta facendo, insomma, si sta facendo conoscere in tutta Europa, come al solito in Italia un po' meno. Si chiamano i Ciaci, o i Ciace Vorba, e hanno pubblicato due album nel giro di 2 anni. Uno è uscito pochi mesi fa e fanno veramente paura. Insomma, sono bravissimi, vanno alla riscoperta soprattutto di tutte le canzoni, di tutte le liriche così un po' folk che hanno contaminato il mondo del, il mondo soprattutto romani, il mondo gypsy da quelle parti. Dunque che ne so, vanno nei Carpazi, vanno nella Slovacchia, vanno nella Bulgaria, vanno nella loro stessa Polonia naturalmente a ricercare tutte queste ballate gypsy, gli danno una reinterpretazione veramente fantastica. Comunque, ascoltiamoci una canzone e poi magari li riprenderemo la prossima puntata, e iniziamo allora l'ascolto di questo ultimo album che si chiama, andiamolo a ricercare, Taino Biav, che forse è romani, Ciace Vorba o Ciaci Vorba, e significa le parole vere in romani, e questo invece Taino Biav, che è l'ultimo album pubblicato dall'Orienta Music, significa, se non mi ricordo male, un matrimonio segreto, un secret marriage, ecco qual è la traduzione in inglese. Comunque iniziamo dalla fine, iniziamo dalle ultime due canzoni che chiudono l'album. In realtà non si capisce perché la prima è tipo un prologo, si chiama Ioane, e poi inizia la canzone vera e propria, però ritroviamo la melodia di questo prologo anche all'interno dell'altra canzone. Dunque, in qualche modo, in qualche oscuro modo, che forse nella prossima puntata risolveremo, queste due canzoni sono collegate, arrivano tutte e due dal mondo romani della Romania. Allora, la Cicogna Nera torna giovedì prossimo, tra poco in Octibus Panis, e io vi auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questi sono i Ciaci Vorba. Ciao, aglio. Și se pe mine seara ne arde foc mai. Doar nu te găsesc deloc mai. Inimioara ne arde foc mai. Nu ți-a fost necuță mile, că eu ea n-am o copile. Nu ți-a fost necuță mile, arde dragostea mai. Vino ne-i că nu mai stăm mai. Dă-mă iartă dragostea mai. Să trăim mândru-i bine, să se mire lumea.